Sosteneva Fleck in Genesi e sviluppo di un fatto scientifico, un libro del 35, che esiste un vincolo stilistico tra tutti i concetti di un'epoca, un vincolo che si fonda sulla loro influenza reciproca. Leggo una recente ristampa della Scarpina di vetro di Mignon Good in Eberhardt, una scrittrice americana specializzatasi in romanzi gialli. E ad un certo punto mi soffermo sul dialogo tra un marito che crede di saperla lunga e la sua giovane moglie. Le si avvicinò e, mettendole una mano sotto il mento, le sollevò il viso. La guardò sorridendo. «Quando avrai i miei anni, ragionerai anche tu diversamente», le dice. E poi, senza tema di apparire quantomeno poco informato, aggiunge: «Quanti anni hai? 25?» «26», corregge lei, e lui: «Io ne ho quasi 40. Ho lavorato sodo tutta la vita e ho imparato a spese mie a controllare le mie emozioni». Mi soffermo un attimo e corro subito a vedere in che anno è stato scritto questo dialogo. 1938 o prima. O prima, perché La Scarpina di vetro è stato pubblicato per la prima volta nel 1938. Oggi sarebbe difficile descrivere gesti come quello della mano sotto il mento per sollevare il viso della fanciulla amata, e soprattutto sarebbe impossibile sentirsi dire che una persona a 39 anni ha già lavorato tutta la vita. Oggi c'è gente che con un po' di fortuna a quell'età giusto comincia a lavorare. L'altro ieri ricevo l'ultimo numero dei I Piccoli Amici di Sant'Antonio, edificante testata pubblicata a Figline Valdarno e giunta al suo quarto numero del 73° anno, nata almeno quindi una decina di anni prima che la Eberhardt scrivesse La sua Scarpina di vetro. In prima pagina, sotto l'ardito titolo di Vizi e Virtù, dove Vizi può vantare una doppia Z, c'è una fotografia con didascalia. Fin dalla primavera della vita, il sentiero della virtù si snoda in salita, richiede decisione, sacrificio, costanza, poi la gioia per il traguardo raggiunto, dice la didascalia. Mentre la fotografia in bianco e nero mostra un bambino seduto al suo tavolino di studio, lampada, libri, palmo della mano a reggere il mento, matita protesa, sguardo assorto verso quell'alto dove si vorrebbe stiano i traguardi, e pettinatura a banana. Dalla fine degli anni 50 non vedevo una pettinatura a banana più a banana di così. C'è una coincidenza. Potevo liquidare la faccenda con un argomento convincente. L'ultimo fotografo che ha lavorato per I Piccoli Amici di Sant'Antonio sarà morto nel 1955 alla veneranda età di 96 anni, e il bambino in cammino sul sentiero della virtù è oggi un nonno abbandonato dai suoi vispi nipotini in un cronicario nei pressi di Figline Valdarno. No, ma c'è una coincidenza. Con la posta del mattino mi era arrivata una lettera del mio amico Paolo. Fra le tante disgrazie capitategli, di cui nel vano tentativo di pareggiare le mie mi racconta, ce n'era anche una relativa ad un'offerta di lavoro che aveva ricevuto e che aveva tanta voglia di rifiutare. Approfittando della presentazione di un conoscente, gli si era parato di fronte un tizio sulla quarantina, sedicente dirigente d'azienda, che gli voleva commissionare la realizzazione di una banca dati per l'ennesimo sito in internet. Bene, non ininfluente sulle sue decisioni in merito, stava il fatto che costui sfoggiasse una pettinatura a banana. Non mi intratterrò più di tanto sui motivi di sospetto. Sono ovvi, La pettinatura banana è forse il primo segno del conferimento di autonomia ad un bambino. I capelli davanti gli crescono prima, glieli si arrotola, come qualsiasi altra conciatura ha avuto il suo momento di gloria, anche presso giovani signore, per poi sparire, diciamo, sparire nell'inverosimiglianza e rimanere a disposizione essenzialmente come sintomo buono per psicanalisti di pochi scrupoli e lento apprendimento. La diagnosi di protrazione indebita dell'infanzia, di desiderio smodato di accudimento, di complesso di Edipo grande come una casa, è lì bella e pronta. Basta pagare. Mi interessa maggiormente chiarire il senso dell'asserzione di Fleck relativa al vincolo stilistico cui dovrebbero sottostare i concetti di un'epoca. È verissimo che c'è un'influenza reciproca e che dunque nulla sfugge a quel contesto in cui è nata, di cui sempre porterà un segno. Ma è anche vero che ogni contesto evolve secondo dinamiche proprie, in dipendenza dei sistemi di valore che lo informano. Nella medesima epoca, intesa come una delimitazione di ordine temporale, insomma, possono convivere in profondità diverse di nicchia anche i concetti più contraddittori, o ciò che dal punto di vista della rilevanza statistica può considerarsi obsoleto con ciò che dal medesimo punto di vista può considerarsi attuale. La mano sotto il mento per alzare il viso della fanciulla amata, il 39enne che ha già lavorato tutta la vita, l'argomentazione persuasoria che punta sulla metafora delle pendenze del sentiero della virtù, il bambino e il dirigente d'azienda pettinati a banana, minoritari quanto si voglia, hanno diritto di cittadinanza nella patria delle fermentazioni ideologiche, come l'hanno altri segni e altri concetti la cui familiarità ci lascia indifferenti. Se rispetto ad un distinto dirigente d'azienda con la pettinatura banana rimaniamo più preoccupati che non rispetto ad un giovane seminudo dall'ombelico tatuato con i capelli arancio bluastri e con mezzo chilo di ferraglia che gli penzola dal naso e dai lobi delle orecchie, è perché siamo ormai tutti dei rapidissimi e aggiornatissimi decodificatori. Chi vive di computer si lamenta spesso della velocità con cui si succedono nuovi programmi, obbligando a cancellare i vecchi. Ma chi vive da umano fra gli umani è come se fosse sottoposto ad un bombardamento di nuovi programmi per comprendere e rielaborare il mondo in cui vive, senza, tuttavia, potersi permettere il lusso di cancellare quelli vecchi. È grazie a quelli, infatti, che può tentare di attribuire significato e valore a ciò che vede. I concetti di un'epoca sono già vincolati l'un l'altro nel momento stesso in cui sono il risultato dell'operare mentale di qualcuno che opera nella società e nel tempo in cui vive. Ogni elemento costituito in quanto tale influenza la costituzione degli altri. Se ho isolato qualcosa, qualcos'altro rimarrà perlomeno differenziato dal primo, e così via proseguendo. E ciascuno in linea di principio dovrebbe non contraddire l'altro, almeno così vorrebbero i teorici della scienza, anche se poi nessuno può negare che fisica atomica e lettura dei tarocchi possano coesistere allegramente fin nel medesimo individuo. La somiglianza stilistica deriva dal fatto che i processi di conoscenza sono intrinsecamente sociali e che ogni risultato è iscritto nella mappa di cui in definitiva tutti possono disporre. La tesi di Fleck dunque ci offre strumenti preziosi per una migliore comprensione del mondo che ci costruiamo e conseguentemente per convivere più serenamente con gli altri. L'associazione di determinati elementi che ricorrono nelle nostre narrazioni avviene in nome di uno stesso paradigma ideologico. È quel marito che crede di saperla lunga nel 1938 che può mettere la mano in quel modo sotto il viso della giovane moglie e credere e dire di aver lavorato tutta la vita pur avendo quelli che per noi oggi sono soltanto 39 anni. È quella fotografia di bambino pettinato a banana che può stare sui piccoli amici di Sant'Antonio. Fra i due elementi diciamo che c'è un'alta compatibilità genetica. E non ci stupirebbe invece se quel marito, facendo e dicendo le stesse cose nel 2000, ricevesse un ceffone dalla giovane moglie, e ci stupirebbe moltissimo se la fotografia del bambino pettinato a banana apparisse sul prossimo numero dell'Espresso. Tuttavia, un margine al comportamento di nicchia in linea di principio va sempre concesso. La natura delle operazioni che condividiamo spingesi al conformismo. Ma tramite gli outsider, i tagliati fuori, ritroviamo ancora qualche traccia di ciò che è scomparso e con un po' di fortuna potremmo perfino dare adito ad uno scarto dalla norma, a qualcosa di creativo.